21, questa è Radio Onda Rossa che modula sugli 87.9 e su www.ondarossa.info per quanto riguarda la possibilità di ascoltarci via web. Queste prove tecniche di trasmissione sino alle 22.30. Stasera 25 o'clock non sarà in onda, dall'appuntamento alla prossima settimana, e quindi spetterà a noi chiudere le trasmissioni in diretta di questa emittente, la quale, come tutti ormai sapranno, è una realtà autogestita ormai dal lontano 1977, quindi avanti con le iniziative nei vari centri sociali, nella sottoscrizione di chi l'ascolta e di chi la vive. 6180 4001 è il conto corrente postale, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, Brievolci 56 00185, Roma. Qualche rapido saluto: Antonio Zoviet di Omicidio a Firenze, Giorgio Falcone di Curehead ci sta ascoltando da Bologna, Des De Carlo da Boston, Stati Uniti, Ernesto Brusati di Panico da Palcoscenico, Maya e Nicolocci che ci stanno ascoltando fedelmente dalla Sardegna, a Taranto Doriana Panico, Anna qui a Roma. Un saluto anche a Sisto Palombella. E di seguito Valentino all'Aquila, Cecilia Miradoli del progetto Pindar, Giuseppe Verticchio di NIM, Isa Etual, Massimo da Latina. Un saluto anche a Marco Milanesio di Disordine e anche come produttore di vari artisti italiani e non. Un saluto a Tiziano Farinacci di Pi Greco. Saluto anche Flavio Derbecante, Jean-Claude Bertot, Arianna Digni Lombardo, anche lei di Noise Cluster come il buon Flavio Rivabella. Tecnica ritorna dopo un paio di settimane e ci eravamo lasciati con l'analisi anche dell'ultimo lavoro di Daniele Santagiuliana, Plumbeo Dark Ambient, per un artista che sovente abbiamo apprezzato soprattutto come testing vault. Allora, questa sera ci ascoltiamo Tutto sta accadendo in questo momento e anche la settima traccia dal nome Ho ingoiato abissi. Ancora Daniele Santa Giuliana che vado a salutare da questo La Stanza sul Retro. E questa è la traccia di chiusura, Ho ingoiato abissi. Dunque il talentuoso Daniele Santa Giuliana da questo La Stanza sul Retro, un lavoro di recentissima uscita, un vero e proprio effettivamente viaggio negli intimi, negli abissi dell'intimità, se non nel dolore, dedicato ai ricordi. Raggelante ambient per questo artista proveniente dal Veneto, che è una terra assai florida di progetti molto interessanti. Saluto Like Wake, che invece viene qui da Roma. Sara Capo Fontana di Progetto No Name. Il fedele Orlando Furioso, salutiamo anche lui di Radio Poderosa. Noi andiamo avanti e rimaniamo sempre in Italia con suoni non lontanissimi da questi di Daniele Santa Giuliana. Progetto emergente dal nome Curehead, proviene da Bologna, di Giorgio Falcone, che vado a salutare. Anche qui umori piuttosto ombrosi, con però di tanto in tanto canglori industriali che arricchiscono questo lavoro molto interessante, per l'appunto dal nome Into the Labyrinth. Artista visto dal vivo qui a Roma a gennaio, in opening diciamo al Cariglion del Dolore, è stato un ottimo live. E quindi non è un caso che lo propongo anche qui in questo spazio di Radio Onda Rossa. E allora ci ascoltiamo da Into the Labyrinth, il terzo brano dal nome Memories. e per la precisione lui è Curehead Key. Mi ero dimenticato la K. Chiedo venia, Giorgio, ma intanto ci godiamo questo Into the Labyrinth. Thank you. brividi e spettrali scenari ideati, costruiti da Giorgio Falcone in arte Curehead K. In questo Into the Labyrinth, che credo sia il lavoro di esordio per questo artista che ci sta ascoltando da Bologna. Sentite comunque come propone anche delle variazioni più elettronico-tribali, un album che tra i vari pregi c'è anche quello di essere poliedrico e variabile. La traccia che ho scelto qui stasera si chiamava Memories e chiaramente ce lo ascolteremo anche il prossimo mercoledì. Altri saluti, Eresia Rex, un grosso abbraccio a lui da Brescia, Moschita de Miramar da Harlem e Olanda, Bruno Salen, storico industrial piemontese. Poi Smizzo, Francesco Monaci, che ha collaborato con Cristiano Bocci. E adesso facciamo un viaggetto in Grecia. Anche per questa sera ci andremo un po' a perdere nei suoni di Anthology of Contemporary Music from Greece, operazione sponsorizzata chiaramente da Raffaele Pezzella, come tanti di questi compendi che fanno l'analisi degli suoni provenienti da ogni angolo di questo globo. La Grecia ha una grossa tradizione nel campo dell'elettronica, dell'industrial, dell'ambient e questo compendio conferma tutto ciò. Cominciamo con Metereos Meteor, con Kits Taramram e poi una traccia di un progetto dal nome Melofobia. Questa era Kids Taram Ram di Meteoros Meteor. Rimanendo nel sottobosco greco, questo artista ha Melofobia e la traccia è scritta in greco e quindi ci siamo avvalsi del traduttore Google, un classico che salva sempre ogni situazione, quindi in inglese Time Window. Ottime news dunque provenienti dalla Grecia con questo compendio della musica delle avanguardie greche. Quest'ultimo segmento apparteneva a Melofobia. Con questa Time Window European War Opening, traccia che ci ha introdotto nel campo dei glitches, del suono spezzettato e ristrutturato, e che ci porta direttamente a un artista che ha fatto di questo verbo artistico la sua ragione di vita artistica. Trattasi di Alva Noto. Da molti anni calca le scene e le nostre orecchie, e lo fa anche con questo Hybrid Eye del 2021. Suono che può piacere soprattutto agli amanti dei Pansonic come il sottoscritto, e lo verificheremo attraverso questo Hybrid Oval Pit Dance e Hybrid Oval Noise. Intanto andiamo a ringraziare Anna e noi ringraziamo anche Alvanoto di donarci la sua arte, i suoi impulsi, i suoi austeri micromovimenti, che giustamente, come dice Nicola Locci, che vado a salutare, possono anche ricordare gli Autecre, oltre e soprattutto i Pansonic. Karsten Nicolai, in arte Alvanoto, uno di quegli artisti che necessita di ottima cuffia e buio assoluto per concentrarsi e perdersi in questi suoni. E ora invece andiamo verso una maggiore fisicità, tornando in Grecia. Lo facciamo con ANFS. Questo è Olatazzi. Sollecitazioni noise da parte di questo artista. E questa sera ci ascoltiamo proprio il brano omonimo, per l'appunto Olatazzi. Intanto saluto Paolo Contucci di Roma Est e anche Enrico Ponzoni di Sokushibutsu Project. Belli questi intendimenti elettronico noise di ANFS Giorgio Nifantis, e probabilmente ANFS gioca proprio con il cognome Anifantis, fondamentalmente togliendo qualche vocale e qualche lettera. Secondo lavoro dal nome Ola Tazzi per la Agia Varvara Originals, etichetta anche lei altrettanto greca. Uno degli artisti emergenti più interessanti degli ultimi tempi, a mio modesto giudizio. Mi ha sorpreso assai, devo dire. Credo anche a voi, già che due settimane fa mi ricordo molti commenti lusinghieri per ANFS. E le gambe di Ernesto Brusati fanno già come elettrodo, ci fa piacere, il che vuol dire che anche lui apprezza ANFS. Saluto Alessandra da Mentana. E anche a questa sera ci siamo gustati un po' di nuovi talenti. E quindi è anche l'ora di andarci un po' a rinfrescare la memoria con la vecchia scuola industriale. Andiamo molto lontano, 1980, secondo lavoro per Nurse with Wound di Steven Stapleton, To the Quiet Man from a Teen Girl. Due lunghe tracce, noi ci ascoltiamo una parte della prima dal nome Umbrella Link, She Alone, Whole and Open.